è logico che una volta andavamo col carro e bue, adesso si va con quei, insomma. Una volta si andava col carro e bue, certo. E adesso invece furgoni. Quando io ero come loro, finiva lì il paese. Ehi. Quando si arriva a Lizzanella era tutta campagna, c'erano solo due o tre case e basta. E cosa c'era di davvero diverso? Proprio il paese era piccolo allora, era, non so, sono stati 300-400 abitanti, quando ero, ne ho 68, si fa presto. E la scuola? Era sotto una volta, la vecchia caserma. La vecchia caserma, e cosa c'era di dove le medie adesso, c'era l'esercito, cioè, e lì aveva fatto, dopo hanno aperto quella là nel 61 credo, perché sono andato io, mio fratello più vecchio no, io sono andato là nel 61, avevamo ancora i banchi, quelli vecchi di là, col calamaio e pennino. Calamaio e pennino. Ma ci sono rumori che piacciono di più, cioè nel senso che ci sono di più a Lizzana, diciamo. Rumori, quando c'è qualche festa, dai, quella roba lì, se no... Ci sono anche rumori tipo rilassanti che le piacciono. Boh, quello non so, musica, la banda. La banda, la musica. Lei sente la campana dei caduti a dove... Certo, e conforme la sento so il tempo. Perché quando si sente più forte, vi è l'aria da nord. Allora il tempo cambia, può venire temporali. Quando la senti piano, allora è una roba normale. Perché noi abbiamo Casteldante lì, no? Quel dosso lì ci ripara tanto noi qua, dal vento freddo. Pratica quasi in Isola Felice di Sanar.